Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, temi facili oggi, nel senso che da un lato si vota e si voterà la fiducia al Jobs Act e dall'altro invece è ancora in corso, verso le 18 dovrebbe esserci la conferenza stampa congiunta di François Hollande, Angela Merkel e Matteo Renzi qui a Milano al termine del... non sappiamo più come chiamarlo, non è un meeting, è una cosa informale, ha avuto mille nomi, insomma è un vertice sull'occupazione in Europa, presieduto appunto dall'Italia, che è presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi da Matteo Renzi. Presenti i capi di Stato e di Governo di 15 Stati membri, e oltre che il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, il presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy e il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Tensione questa mattina, tafferugli tra manifestanti no global e polizia, ma al di là di questo cercheremo di darvi anche in diretta, perché se dovesse essere confermato l'inizio alle 18 faremo ascoltare la conferenza stampa in diretta. Dicevamo del Senato e della fiducia, anche quello è un voto che inizierà verso le 18:30, per cui potremo solo darvi così una ricostruzione. Per quello che riguarda invece la borsa oggi, meno 0,80% Milano, meno 1,16% Parigi, meno 1,1% Francoforte, Londra meno 0,30%, l'America è invariata. Di nuovo sotto pressione World Duty Free, che continua a perdere da quando ha annunciato profitti meno alti del previsto, meno 3,90% per World Duty Free. Anche Autogrill la segue, meno 3,50%. E ancora Tenaris meno 3,20%, A2A meno 2,81%. Tra l'altro su World Duty Free è arrivata oggi anche la bocciatura da parte di Goldman Sachs come giudizio sul titolo, e questo ha influito. Ma dicevo, A2A meno 2,80%, Enel Green Power meno 2,30%, Steam Microelectronics meno 1,90%, Exor meno 1,80%, UniCredit meno 1,6% come Mediaset e Moncler e Mediolanum. Meglio vanno invece oggi le banche, in particolar modo la Popolare di Milano più 1,50%, il Monte dei Paschi più 1%, Banco Popolare più 0,36%. Euro sopra quota 1,25, 1,26,79. L'ultima cifra, come sempre, per i vostri sms, il 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. La battuta di un ascoltatore che già scrive: un vertice sull'occupazione tedesca dell'Europa. Non siamo ancora a questi livelli. No, alcuni mi chiedono invece se avremo ospite Piketty, l'economista francese, che è stato il caso editoriale dell'anno negli Stati Uniti, con un libro dal titolo modesto, si chiama Il Capitale. Sì, lo avremo ospite, lo intervisteremo. Piketty, insomma, ha dedicato uno studio enorme, sono quasi 900 pagine, all'andamento delle disuguaglianze dal fine del XVII secolo fino ad oggi, cercando di capire gli elementi che aumentano o riducono le disuguaglianze sociali. E parleremo di questo, ma parleremo anche dell'attuale Europa, visto che Piketty è francese e insegna in Francia. Il boom però l'ho avuto negli Stati Uniti, dopo che Barack Obama ha detto che è stato uno dei libri più interessanti che ha letto negli ultimi anni, e via così. Lo avremo ospite. Lui è molto critico non sull'euro ma sulla gestione di questa Europa. Vi anticipo che, a mio avviso, una critica che lui fa, che è abbastanza condivisibile, è che finché Francia e Italia non avranno delle proposte concrete su come, su politiche per la crescita, sarà gioco facile, sarà molto facile per la Germania dire di no, perché se tu vai e chiedi solo soldi, diciamo, dà l'impressione di chiedere solo cordoni più larghi, più flessibilità intesa come minor rigore, ma non hai un progetto specifico di dove andrebbero messi i soldi dell'Europa, per fare che cosa, con che piano, è chiaro che la Germania dice: noi non siamo un bancomat, e ti risponde picche. Se andassi con un programma di interventi seri, circostanziati, precisi, per esempio uno può pensare agli investimenti infrastrutturali da scorporare fuori dal deficit, ma insomma cose molto precise, metteresti la Germania molto più in un angolo, perché poi dire di no vorrebbe dire anche assumersi delle grosse responsabilità e restare in minoranza anche nel Parlamento europeo. Andiamo comunque con le altre notizie in breve. L'economia internazionale, per quello che riguarda Air France, lo sciopero dei piloti di Air France è costato, secondo la compagnia, circa 500 milioni di euro sul margine operativo, 320-350 milioni di euro sul margine operativo lordo del terzo trimestre, e potrebbe essere più alto e arrivare fino a 500 milioni, lo dice il direttore finanziario di Air France. Mezzo miliardo di euro come botta non è poco. Nel frattempo la Banca Mondiale, cambiamo tema, oggi ci ricorda che il numero dei poveri nel mondo resta alto a livelli inaccettabili, più di un miliardo, il 14% della popolazione mondiale, a fronte però di 1,2 miliardi nel 2008, il che vuol dire che dal 2008 in poi l'area euro in particolare si è impoverita come potere d'acquisto, ha aumentato la disoccupazione, è cresciuta la fascia di cittadini europei vicini alla soglia di povertà, ma a livello mondiale il numero di poveri misurati dalla Banca Mondiale è calato di 200 milioni, perché ci sono altre aree, come ben sanno le nostre imprese che esportano in quelle aree, dove la ricchezza si sta creando e sta anche aumentando. Nel frattempo sempre la Banca Mondiale ci dice che il virus Ebola o dell'Ebola rischia di presentare un conto salato se l'epidemia si estenderà ad alcuni paesi vicini a quelli più colpiti, Sierra Leone, Liberia e Guinea. L'impatto finanziario a livello regionale sarà di 32 miliardi di dollari entro la fine del 2015. A me sembra, col massimo rispetto per la Banca Mondiale, una gufata. Perché? Perché cosa vuol dire se si estenderà? Allora fai il calcolo anche se si dovesse estendere all'Europa e agli Stati Uniti. Così come, col massimo rispetto, mi sembra una gufata quanto ha detto oggi un rappresentante importante del Fondo Monetario Internazionale, il direttore generale, Christine Lagarde, ha detto: attenzione, le riforme del lavoro nell'area euro spingono il PIL. Però il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, che è un italiano, Andrea Montanino, ha presentato il country report, quindi l'analisi sull'andamento dell'Italia, riguardava infatti l'Italia. Ha detto: attenzione, la crescita potenziale dell'Italia crolla per gli anni futuri, siamo inchiodati allo 0,5%, non ha, con le condizioni attuali, non è un paese in cui si possa assicurare un futuro radioso o quantomeno sereno. E voglio dire, chi guida in macchina per favore tenga le due mani sul volante. Sentiamo, perché poco fa la nostra Livia Zancaner ha raggiunto appunto il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Andrea Montanino, e gli ha chiesto appunto come mai una previsione così negativa, addirittura né un futuro radioso né un futuro sereno. Il Fondo Monetario ha una stima di crescita del PIL potenziale, quindi la ricchezza, come dire, nel medio-lungo periodo del paese, che è intorno a mezzo punto di PIL, mezzo punto percentuale di crescita. È chiaro che con una crescita così bassa non si riesce ad abbattere il debito pubblico e soprattutto non si riesce a creare sufficiente occupazione. Quindi è quello che dobbiamo cambiare, cioè dobbiamo dare una prospettiva e fare in modo che quella 0,5% di crescita stimata nel medio e lungo periodo diventi l'1-1,5%. E per farlo bisogna agire molto sul micro, bisogna agire con tutte quelle piccole riforme che possiamo chiamare strutturali, ma chiamiamoli piccoli cambiamenti del paese che però faranno cambiare e svoltare l'economia nazionale. Il Fondo Monetario parla della giustizia, parla della pubblica amministrazione, del mercato del lavoro. Questi sono gli aspetti che sono stati evidenziati tra i più importanti per far sì che questa bassa crescita potenziale diventi un'alta crescita potenziale. Qual è l'idea che si è fatta il Fondo Monetario sulla riforma del lavoro? Guardi, il fondo da tempo analizza il mercato del lavoro italiano, considera importante avere una sorta di contratto unico, di avere delle politiche attive del lavoro che funzionano e che non siano parcellizzate tra competenze statali, competenze regionali. Questi sono due elementi su cui il fondo ha spinto da tempo. La valutazione sulla riforma ovviamente non si può dare perché si sta discutendo in Parlamento e poi bisognerà andare a vedere come saranno i decreti legislativi che verranno attuati a valle della delega. Quindi mi sembra di capire che però la direzione è quella che era stata auspicata anche dal Fondo Monetario. Avete parlato di investimenti e di utilizzare fondi europei per gli investimenti pubblici. Come si potrà fare? Il World Economic Outlook, che è il rapporto che esce due volte l'anno da parte del Fondo Monetario con le stime sull'economia mondiale, quest'anno ha messo un accento sul tema degli investimenti pubblici, dicendo che per far non solo ripartire la crescita nel breve periodo, ma per avere una crescita sostenuta anche nel medio e lungo periodo in Europa, sono necessari più investimenti pubblici. Come farli è complicato, perché dobbiamo dimenticarci che ci sono paesi come il nostro che hanno un alto debito pubblico e dobbiamo ogni volta, ogni settimana, vendere titoli del debito e quindi i mercati devono essere sicuri che noi siamo in grado di rimborsarli. Per ora è stato così, l'Italia è stata molto efficace da questo punto di vista, quindi nessuno ha mai messo in dubbio la credibilità dello Stato italiano a rimborsare i propri debiti. È chiaro che bisogna trovare un po' di spazio per fare investimenti. Per rilanciare l'economia è importante anche la semplificazione? La riforma principale per fare le riforme è proprio avere processi decisionali semplici. Non si offenda per questa per il gufo, e abbiamo fatto anche la base del gufo, perché adesso il gufo va di moda con tutti, visto il Premier Renzi, noi rivendichiamo la primogenitura. Non si offenda, però, insomma, dire che certo c'è un ascoltatore che dice: beh, almeno non ha detto che siamo morti, che qualche battito c'è ancora. Ho capito. Però il Fondo Monetario, oltre che dirci che non prevede una grande crescita e non prevede un futuro radioso e soprattutto nemmeno sereno, lo ringraziamo, potrebbe anche spingere un po' di più nel criticare allora che cosa ci ha portato in questo modo, in queste situazioni, le riforme, ma anche un certo atteggiamento d'Europa. Se no, voglio dire, sei come quello che osserva la persona che sta male, dice: stai male, potresti stare sempre peggio, capito? Dammi anche qualche ricetta e dalle in maniera forte, perché poi il Fondo Monetario, se vuole intervenire, intervenga in maniera ancora più forte nei confronti di questa gestione dell'Europa. Allora, il vertice sul lavoro, vabbè, le dichiarazioni ve le abbiamo raccontate. Schulz, Presidente del Parlamento Europeo: il governo italiano è fantastico, sta facendo il massimo per mobilitare gli investimenti, io lo sostengo proprio in questo. Non metteremo a posto i bilanci pubblici senza la crescita, pertanto stimolare la crescita attraverso investimenti pubblici e privati è la soluzione, deve spiegarlo ai tedeschi. Il Premier Hollande: la crescita è la priorità di tutti, meno austerity, insistere sul piano di investimenti europei, i famosi 300 miliardi ventilati da Juncker, senza spiegare come, dove, cosa ci vuoi fare con questi 300 miliardi? Le infrastrutture? Quelle digitali? Quelle fisiche? Non so, decidiamo. Nel frattempo, alla manifestazione contro il vertice UE era presente anche Landini: siamo pronti a occupare le fabbriche, ha detto Maurizio Landini. Sì, oltre che occupare fabbriche, però diamo anche qualche accordo, sennò fra un po' occuperete fabbriche vuote se la produzione industriale continua a non riprendersi. E poi invece il neo segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, ha detto: occupare le fabbriche oggi con 3 milioni di disoccupati e la produzione industriale in caduta libera è l'ultima cosa che un sindacalista deve immaginare di fare. E voglio dire, ha ragione, manca solo che occupiamo le fabbriche e blocchiamo quello che resta della produzione industriale italiana, che faccio presente è sotto di un 25% rispetto ai livelli del 2008. Vuol dire che è come se una fabbrica su quattro avesse un capannone, un'impresa, non solo fabbrica, ci mancherebbe, un'impresa su quattro avesse smesso di esistere. Non è così, perché molti hanno ridotto la produzione, ma il 25% è sotto il livello del 2008. e tu vuoi occupare l'altro 75, va bene? Va bene, il Movimento 5 Stelle si è barricato in aula, caos sul Jobs Act, alle 18.30, ripeto, inizierà il voto di fiducia. C'è un emendamento che riguarda la revisione delle mansioni dei lavoratori, anche la contrattazione aziendale o quella di secondo livello può individuare ulteriori ipotesi, questo è sul fatto di trovare una formula che permetta di cambiare la mansione del lavoratore, perché ormai è difficile che uno a 25 anni entri con una mansione e la tenga tutta la vita, senza però arrivare al demansionamento, evitando il rischio demansionamento. Il ministro Poletti ha detto la situazione è drammatica, occorre agire urgentemente, insieme, velocemente. L'articolo 18 non è l'alfa e l'omega della nostra riflessione. Per il governo italiano è assolutamente centrale e prioritaria la delega lavoro in tutta la sua portata, non solo l'articolo 18, che ne rappresenta certo una parte significativa, ma che nelle nostre aspettative non è, come invece potrebbe apparire dalla discussione di queste settimane, una sorta di alfa o omega della nostra riflessione. Io rispetto pienamente tutte le considerazioni che sono state svolte su questo argomento, considero forse eccessive le aspettative sia in senso positivo che negativo che vengono caricate su questo argomento, che è sicuramente rilevante ma meno decisivo di quanto si possa ritenere. Appunto il ministro Poletti e poi il TFR. Vorrei farvi riascoltare che cosa ha detto ieri il presidente Confindustria Squinzi a proposito del TFR, dicendo che non è che le imprese siano contrarie, se a costo zero non ci opponiamo a patto che venga mantenuta la libertà di scelta. Ma sul TFR ci ha confermato quella che era la nostra richiesta. Io l'ho richiesto sabato scorso a Napoli nel corso del convegno della piccola industria, che non doveva essere a costo zero e impatto zero sulle aziende, perché la situazione è drammatica soprattutto per le piccole e medie aziende e in modo particolare le piccole, quindi non sono le nostre aziende in grado di supportare ulteriori oneri, ulteriori aggravi di costo. Da questo punto di vista è stato molto rassicurante. Il primo ministro ci ha detto io personalmente se non porta aggravi di costi, se viene lasciato alla libera scelta del lavoratore se prendere o non prendere il TFR, e con un'ultima aggiunta, secondo me dovrebbe anche riguardare le aziende pubbliche. Allora, mentre vedo che molti al 349-238-6666 dicono non è un problema di gufo, ha ragione il direttore esecutivo, non ci sarà un futuro sereno né radioso, qui il problema non è dei gufi ma è degli struzzi, cioè di quelli che mettono la testa sotto la sabbia, va bene. Io il gufo l'ho dato al Fondo Monetario, perché dire semplicemente non avete un avvenire radioso né sereno e non vedo questa presa di posizione forte del Fondo Monetario sulle soluzioni, si becchi il gufo. Non che non sia un rischio. In secondo aspetto, nessuno sta dando, però non è che posso spiegare ogni volta tutte le colpe alla Germania. Abbiamo delle colpe enormi noi su quello che non abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Però adesso qualcuno se la ricorda la parabola del figlio prodigo, cioè continuare a dire hai sbagliato negli ultimi 20 anni non ti porta da nessuna parte. Bene, facciamo le nostre riforme, però prendiamo anche atto che le riforme come quelle che dobbiamo fare, la Germania le ha fatte nel 2003 con l'economia che cresceva e sforò pure il deficit, con un'economia che era ai massimi, con la finanza che era ai massimi, con le banche che prestavano soldi a tutti, anche a chi non dovevano. Ora, fare adesso queste riforme e cercare di mantenere i parametri sul deficit è un lavoro praticamente impossibile. Non è lo stesso scenario del 2003 e i tedeschi devono capire questo, non lasciarci non fare le riforme o abdicare sulle riforme, ma capire il contesto, se no lo struzzo non è italiano, lo struzzo è tedesco. E noi continuiamo nel frattempo il viaggio nei settori produttivi di questo paese, e ne abbiamo fatti, dopo abbiamo fatto la moda, il tessile, la nautica, la ceramica, il lattiero caseario, l'edilizia. Oggi ci occupiamo della meccanica, che è il primo settore industriale nel nostro paese per incidenza sul PIL, 8%, e anche come valore aggiunto sul manifatturiero, pesa per il 46%. La meccanica fattura in questo paese 380 miliardi di euro e dà lavoro a 1.700.000 persone. Per far capire quanto sia importante la meccanica in Italia, in Francia sono 1.200.000 gli occupati, in Inghilterra 1.000.000, solo la Germania ci batte con quasi 4 milioni di occupati nella meccanica. Però, è un settore che dal 2007 al 2013 ha avuto un calo del 30% nel calo produttivo e 230.000 esuberi, cioè persone che hanno perso il posto di lavoro o comunque sono usciti dal mercato del lavoro e non sono stati rimpiazzati. Nello stesso periodo solo la Germania ha registrato un incremento delle attività più 2%. E questo per quale motivo? Beh, per il crollo della domanda interna, intesa come domanda italiana e anche dell'Europa, perché l'area euro è un mercato interno. Infatti l'anno scorso l'Expo della meccanica ha sfiorato i 187 miliardi di euro, che è il livello prima della crisi. E che vuol dire che questo assicura alla bilancia commerciale italiana, la differenza tra export e import, 64 miliardi di euro. Dottor Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. Allora, poi andiamo con la pausa del meteo e la pubblicità e vado al resto. Mi dica solo una cosa, io un commento sul Jobs Act e sulle politiche tedesche, a voi lo devo chiedere per due motivi, perché voi siete, come direbbero quelli che hanno studiato, labor intensive, cioè avete tanti occupati, no? Per produrre, non siete il settore dell'IT, per farci capire, dell'information technology o dei servizi, e avete un rapporto strettissimo con la Germania, perché spesso le nostre imprese sono fornitrici o subfornitrici di imprese tedesche. Allora, lei che giudizio si è fatto sulla polemica sul Jobs Act, ma anche sulla posizione tedesca? Allora, come ha detto lei, noi abbiamo tanti occupati e tanti ne abbiamo persi, come anche ha riferito. Si parla di 200.000 persone che hanno perso il lavoro dal 2007 fino ad oggi. Quindi, per citare il presidente Squinzi, la situazione è drammatica e questa drammaticità ovviamente riguarda anche e soprattutto la meccanica, che è la spina dorsale per quei numeri che lei ha dato, la spina dorsale del sistema industriale italiano. E quindi noi sentiamo il bisogno di meno polemiche e più fiducia, perché come lei sa in economia la fiducia è tanto se non tutto, e in questo momento noi vediamo poca fiducia ed è questo anche il motivo per cui io personalmente e i vertici di Federmeccanica stanno facendo un vero e proprio tour in tutti i territori, da nord a sud, per sentire e toccare il polso delle nostre aziende. Aziende che, come ha detto, esportano tantissimo verso la Germania, ma non solo, e le crisi geopolitiche che stanno colpendo il globo, partendo dalla crisi russa-ucraina fino a quella del Medio Oriente, sono un colpo quasi mortale per quelle aziende che soffrono tantissimo la perdita della domanda interna e che vedono nell'export l'ancora di salvezza. Quindi la Germania, i rapporti con la Germania sono sicuramente importanti, noi abbiamo come orizzonte il globo intero e soffriamo tantissimo in questa fase la crisi geopolitica Russia-Ucraina. Per venire al tema Jobs Act che lei prima mi chiedeva di commentare, le ho parlato della fiducia. Io penso che in questa fase per realizzare una vera ripresa è necessario fare due cose. La prima, attraverso le riforme, iniettare fiducia nel sistema. E io penso che le riforme strutturali, come possono essere quelle del Jobs Act, poi è chiaro ancora la legge delega contiene dei principi generali, quindi aspettiamo di vedere e lavoreremo e dobbiamo lavorare tutti perché i decreti delegati vadano nella giusta direzione di una riforma strutturale con la R maiuscola, e quindi le riforme servono per iniettare fiducia. Questa è una prima cosa. La seconda, liberare risorse. Se lei pensa che il 66% dei profitti vengono erosi dalle tasse, se pensa che la burocrazia costa 30 miliardi, è chiaro che anche laddove ci fosse del credito, altro grande problema, sarebbe molto difficile trovare dei profitti da reinvestire. è proprio i beni di investimento, la caduta dei beni di investimento, parte integrante della domanda interna, è il problema con la P maiuscola che noi dobbiamo affrontare. Quindi sia le riforme, perché possono iniettare fiducia, e la fiducia è qualcosa che fa bere il cavallo quando c'è l'acqua e quando prima non voleva avere, quindi riforme strutturali come Jobs Act per dare fiducia e poi liberare risorse. Allora, questo è chiaro, poi dopo la pausa per il metro e la pubblicità vorrei capire invece, lei ha già accennato al fatto che l'export per voi è fondamentale, io ricordavo che sono 187 miliardi quanto avete esportato l'anno scorso come meccanica, le tensioni che arrivano non solo dalla domanda interna dell'area euro ma anche dalla crisi russo-ucraina. Vorrei capire però come va anche il vostro rapporto con la Germania, perché abbiamo avuto ieri, l'altro ieri, due dati non belli dalla Germania: ordini attivi in calo del 5% e produzione industriale in calo pure, oltre il doppio delle attese, a livelli, un calo così forte non si ricordava dal 2009. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi, andiamo sulla congiuntura. Lei già citava l'Ucraina e la Russia, dove stanno arrivando le difficoltà, ma soprattutto che cosa sta pesando? Perché, ripeto, voi avete un export che è tornato sui livelli del 2008, ma complessivamente il calo produttivo è del 30%. Assolutamente, vede, l'export è tornato più o meno a livelli del 2008, ma si poteva fare di più anche sull'export. Le quote di mercato che siamo riusciti a catturare, tra virgolette, sono interessanti, ma sicuramente avremmo potuto essere ancora più competitivi. Quindi l'export tiene, ma rispetto ad altri paesi è cresciuto un po' meno, però è chiaro che, come ho detto prima dell'intervallo, è la nostra ancora di salvezza. Lei prima citava la Germania. Germania per noi è importantissima, è il principale paese esportatore, ed è chiaro che la debolezza dell'economia dei principali paesi europei è un fattore di grande preoccupazione. Quindi da un lato abbiamo le crisi geopolitiche che ci preoccupano non poco, tantissimo. In Russia noi abbiamo visto un calo di circa 17%, e quindi questo è veramente un fattore di grande, grande preoccupazione. Come le dicevo, io sto andando nelle fabbriche, le fabbriche mi dicono, gli imprenditori mi dicono che questa crisi geopolitica ci sta veramente dando un colpo, non vorrei dire mortale, perché, come ho detto, bisogna dare fiducia. No, se no le do il buffo. No, per carità. Noi, vedi, abbiamo bisogno di volare, di liberare le nostre ali, quindi pensiamo più a un'aquila o qualcosa di questo tipo che non a struzzi o a gufi. Però ecco, bisogna anche... Sì, per ora gli italiani di volatili ne hanno visto uno solo, soprattutto, che vola basso. Che vola basso, sì, però... Dobbiamo volare più alto. Ecco, assolutamente, vogliamo più alto. Dottor Franchi, mi scusi, perché qua stiamo andando in osmosi verso un altro programma, invece vorrei mantenere la specificità di Focus Economia. Dicevo, ma se l'export è quello che avevate nel 2008, che cosa manca all'appello? Diciamocelo tranquillamente, manca la domanda interna italiana o manca la domanda interna dell'area euro, che ripeto è quasi un mercato interno? Perché poi questo si ricollegherà all'approfondimento che faremo fra mezz'ora, i temi europei, la conferenza stampa Angela Merkel, François Hollande e Matteo Renzi. Manca la domanda interna italiana, manca l'appello, non da ora, da anni, da 2007 in poi, e speriamo che non manchi, visto che dobbiamo avere fiducia, la domanda interna europea da oggi in poi, ma oggi mentre io e lei parliamo manca all'appello la domanda interna italiana, è crollata vertiginosamente. Lei prima diceva, ed è un dato giusto, 30% della produzione industriale. Io gliene dico un altro ancora più drammatico, la perdita di un quarto della capacità produttiva, che vuol dire anche tornasse la domanda, per un quarto non saremmo in grado di rispondere, no? Quindi la domanda interna è questo il grande problema, il problema con la P maiuscola. Mi dica una cosa, Franchi, per concludere, c'è qualche ascoltatore che mi scrive anche oggi, lo scrivono spesso, ma insomma non avete capito che la Germania, a me non mi frega nulla se mi dite che sono ossessionato con la Germania, io sono ossessionato dai temi che riguardano l'economia di anno in anno. E così rispondo anche a chi dice: ma dove eravate negli ultimi 20 anni? Allora, 20 anni fa non c'eravamo, 15 anni fa sì, perché abbiamo appena festeggiato i 15 anni di Radio 24 e poi vi sarà una grande festa il 15 ottobre. Però se qualcuno avesse ascoltato modestamente il programma, negli ultimi 15 anni ogni volta che criticavamo il governo venivamo chiamati o comunisti o disfattisti o quant'altro, e invece raccontavamo semplicemente di un paese che prima del 2008 già cresceva troppo poco, che le riforme già non le voleva fare, le corporazioni tutte si inalberavano ogni volta che c'era un tentativo di liberalizzazione, di maggiore concorrenza, e quindi c'erano le imprese sui mercati esteri che la concorrenza se la beccavano tutta, anche quella più o meno scorretta cinese e indiana, e poi i corpi sociali tutelati all'interno del paese, professionisti, giornalisti, gli ordini, e le categorie, gli intoccabili, il pubblico impiego, tutto quello che stiamo raccontando. Noi quando dicevamo che le cose non andavano bene, cari ascoltatori, perché sono un paio, venivamo accusati in quegli anni, parlo di 10 anni fa, 12 anni fa, di essere disfattisti, di essere dei giornalisti come sempre comunisti che guardano mo adesso non prendetevela con noi, qualcuno li avrà votati i governi di questi ultimi 15 anni. Chiudo su questo. Gli ascoltatori mi dicono: ma non è che non avete capito che la Germania è il più grande concorrente dell'Italia, o l'Italia è il più grande concorrente della Germania sulla meccanica, e la Germania sta godendo di questo, c'è chi dice che lo fa apposta, diciamo, di quello che sta capitando. Lei si è fatto l'idea che ci possa essere addirittura un'utilità della Germania, del sistema produttivo tedesco, nel lasciare l'Europa in questo modo, oppure no? Perché poi se si ferma l'Italia, la Francia, pure le imprese meccaniche tedesche vanno in difficoltà. Sicuramente andrebbero in difficoltà. Come le ho detto prima, la Germania è al top of the list della nostra classifica, chiamiamola così, di paesi esportatori, quindi vuol dire che la Germania, il made in Italy, lo apprezzo molto, i beni strumentali fanno parte della catena produttiva della Germania, quindi fermare l'Italia per la Germania sarebbe come fermare un ingranaggio della propria macchina, quindi non conviene assolutamente. Vede, il passato che lei ha citato deve servirci ad una cosa, ad imparare quello che potevamo fare meglio, quindi ora dobbiamo guardare al futuro. Le ripeto, è la fiducia che conta, e quindi noi non dobbiamo piangerci addosso, guardare quello che è successo, imparare dagli errori, fare delle riforme vere e dare fiducia a questo sistema che ha bisogno di questo prima di tutto il resto. E quindi ecco, la Germania non avrebbe interesse a un crollo dell'Italia, perché sarebbe, come ho detto, bloccare un ingranaggio della propria macchina, e noi bisogna a questo punto guardare al futuro non scordandoci del passato, imparare dagli errori e fare veramente le cose. Allora, grazie al direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi, sono assolutamente d'accordo con lei, infatti non stiamo parlando del passato, sarebbe troppo comodo, cerchiamo di capire dove va e quale direzione sta prendendo l'Italia e il mercato interno italiano, che si chiama, piaccia o non piaccia, euro. Sarebbe troppo facile parlare del passato, lo dico a chi scrive, sarebbe troppo facile ricordare quanto delle volte eravamo soli o definiti uccelli menagramo nel ricordare. Attenzione, non si possono mantenere i privilegi, ognuno il suo, no, l'ascensore sociale di questo paese si è fermato, è inutile continuare a dire che i ristoranti sono pieni, che tutto va bene, che è colpa della stampa cattiva, però voglio dire, diciamocela tutta. Una fetta di questo paese faceva comodo crederla così. Poi è arrivata la crisi, che da noi si è trasformata non solo in crisi finanziaria ma anche in deficit di competitività. La Germania e la gestione dell'Europa ci ha messo il suo, e abbiamo scoperto che abbiamo buttato via 20 anni o 15 o 18, fate voi, va bene. Però insomma, non è che prima vedessi tutto questo afflato, questa energia per dire cambiamo il paese. Ognuno, finché manteneva i suoi piccoli privilegi o grandi privilegi, era contento, e questo lo si rispecchiava anche nelle indicazioni di voto. Poi fermiamoci qua e guardiamo al futuro. We'll be right back. la borsa e poi la fiducia al governo. Vediamo se compartirà in orario la conferenza stampa dei tre premier. Allora, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, come sempre il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Volete sapere di Twitter? Sì, avremo anche Twitter, dopodiché non vi aspettate che chi vi parla riesca a rispondere mentre conduce al Twitter, lo faranno i bravissimi assistenti al programma dalla regia. Meno 0,60% Milano, meno 1% Francoforte, meno 1% Parigi, meno 0,20% Londra, Pop Milano più 1,33%, Azimut più 1,30%, Monte dei Paschi più 1,20%, Banco Popolare più 0,60%, Saipem mezzo punto percentuale. Continua invece il calo anche oggi di World Duty Free, meno 4,50%, e va pari passo anche Autogrill, meno 3%. Partiamo da qui con Guido Maurino di Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera, sì, anche oggi è stata una giornata difficile. Possiamo ricordare, scusami se ti interrompo, World Duty Free cos'è? Perché è nata da una, come dicono quelli che hanno studiato, uno spin-off. Sì, è nato da uno spin-off di Autogrill e si occupa di tutti quei negozi duty free che ci sono negli aeroporti, un po' in mezzo mondo. Quello che sta facendo penare particolarmente il titolo in queste sedute, in queste giornate, sono gli aeroporti spagnoli, perché appunto World Duty Free ha avuto una concessione per i principali scali spagnoli, a partire da quello di Barcellona e quello di Madrid, e quindi paga un affitto per questi negozi. I parametri con cui sono stati decisi questi affitti oggi sono molto onerosi per la società, perché gli aeroporti spagnoli hanno registrato dei cali significativi di traffico. In più, una parte del turismo, ad esempio il turismo russo, che contava molto negli anni passati, sta venendo meno per le crisi geopolitiche. Gli affitti però invece rimangono gli stessi, anzi sono destinati a crescere in modo significativo per i prossimi 2 o 3 anni. Erano dati che non erano stati resi pubblici nella loro interezza al momento della stipula dei contratti, sono venuti fuori la scorsa settimana, e da allora appunto World Duty Free ha già ceduto il 16%, anche oggi ha fatto un altro meno 4,5%. Eh sì, si fa pesante il calo a questo punto su World Duty Free. Quanto è perso dall'inizio della vicenda? Sono 18%, uh-huh. Siamo sul 18%. Ok, nulla, ma insomma, questo è Azimut più ne 30. Per quello che riguarda Azimut, oggi è andata bene dopo che la società ha diffuso i dati sulla raccolta a settembre. Per la società di risparmio gestito, l'ultimo mese ha registrato una raccolta positiva per 284 milioni, che è un dato particolarmente significativo, perché settembre è storicamente un mese un po' difficile per la raccolta, e per cui è un dato molto buono, e oggi sì, è stato premiato il titolo in borsa. Oh, l'effetto delle parole di Sergio Marchionne, non le ricordavo in apertura, ha detto io resterò in Fiat fino al 2018, poi troverò qualcos'altro da fare. Hanno avuto un impatto sul titolo? Hanno avuto un impatto in mattinata, quando appunto è stata resa nota l'anticipazione dell'intervista. Poi via via si è affievolito l'effetto, anche perché sostanzialmente con queste parole Marchionne ha ribadito che lui resta. Quello che aveva già detto in precedenza, che fino al 2018, quindi fino al termine del piano quinquennale, sarebbe rimasto ai vertici del Lingotto. Ancora, tra i titoli cito Tenaris meno 3,24, A2A meno 2,50, Enel Green Power meno 2,30, Exor meno 1,60, ST Microelectronics meno 1,5, Mediaset meno 1,40 come Mediolanum, l'1,30 lo perde Moncler ma anche Pirelli, l'1,1 è il calo di Tods, Telecom Italia e Unicredit. CNH di positivo invece c'è anche Monte dei Paschi più 1,20, Banco Popolare più 0,60, Saipem più 0,40, Terna più 0,30%. Oggi era sotto i riflettori anche Enel, che alla fine comunque ha chiuso con un calo dello 0,66%. È arrivato anche via libera al dividendo di Endesa, la controllata spagnola. Sì, è arrivato questo maxi acconto sul dividendo, perché complessivamente vale 6,35 miliardi di euro. Oggi ho trovato, c'era anche l'Investor Day di Endesa, e il gruppo energetico ha promesso una politica di dividendi più attraente, con un obiettivo di crescita di almeno il 5% l'anno. Diciamo che era in qualche modo atteso anche il dividendo, e come dire, le prospettive sul futuro hanno premiato il titolo durante la mattinata, ma poi è arretrato un po' con tutti i settori legati all'energia, anche perché i dati sugli stock petroliferi negli Stati Uniti sono stati deludenti, hanno fatto scendere il prezzo del petrolio e a ruota tutti i titoli legati al settore dell'energia hanno chiuso in calo. Abbiamo visto ad esempio con Tenaris meno 3,24, ma anche con Enel Green Power meno 2,35, e un po' tutti gli energetici, sì, sono andati male. Migliori e peggiori, Meridie più 6,30, ITWay più 2,30, Ambro Mobiliare più 2,14, ACSM invece meno 10%, Seat Pagine Gialle meno 7%, P-Quadro meno 6,60. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Avete ragione rispetto a quello che ho detto prima. C'è qualcuno che non ha responsabilità su quello che è successo, e sia chi adesso ha 20 anni, 25 anni, che non ha goduto di niente. Avete ragione loro e chi magari si è trovato senza lavoro in questi anni. Tutti gli altri, a mio avviso, le varie categorie sociali, meglio che si mettano una mano sulla coscienza e dicano se non gli andava bene l'Italia di 15 anni fa, e quando dicevamo attenzione, bisogna fare riforme, le riforme erano sempre quelle degli altri. Give. 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Già il nostro GR24 vi ha aggiornato sul doppio fronte che rappresenta l'attualità economica di oggi, ossia vertice sul lavoro a Milano, come era presumibile in ritardo la conferenza stampa congiunta Hollande, Merkel, Renzi, e il voto di fiducia che dovrebbe partire al Senato verso 18:30. Allora, vediamo di riepilogare cosa è successo fino adesso sul vertice sul lavoro. Poco fa la cancelliera Angela Merkel appunto ha detto: sul fronte dell'occupazione si devono eliminare le barriere presenti nel mercato del lavoro, e l'Italia sta cercando di farlo con il Jobs Act, sta facendo un passo importante da questo punto di vista. Questo avrebbe detto Angela Merkel intervenendo alla conferenza sul lavoro di Milano. Già questa mattina Renzi aveva ottenuto il plauso sulla riforma del mercato del lavoro da parte di Schulz, del Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz e del Presidente francese Hollande. Allora, partiamo da Schulz, il quale ha detto: attenzione, il Jobs Act di Renzi va nella giusta direzione, l'Italia sta facendo le riforme importanti, è stato un plauso totale, il governo italiano è fantastico, fa il massimo per mobilitare gli investimenti, lo sostengo. E poi ha aggiunto: non metteremo a posto i bilanci pubblici senza la crescita economica, e quindi stimolare la crescita attraverso gli investimenti pubblici e privati è la soluzione. Penso che il governo italiano stia facendo il massimo per smuovere gli investimenti. Io sostengo completamente il governo in questa sua azione. Non avremo mai bilanci sostenibili se c'è la crescita e migliori entrate. Fare solo tagli non ha senso. Abbiamo certo bisogno di una gestione sostenibile del debito sovrano e una riduzione del debito. Ma non metteremo a posto i bilanci pubblici senza crescita. Pertanto, stimolare la crescita attraverso investimenti pubblici e privati è la soluzione. E il premier francese Hollande, che invece è tornato sulla crescita, è priorità di tutti, meno austerity, occorre insistere sul piano di investimenti dell'Unione Europea. La croissance e l'emploi puissent être les priorités de l'Unione. Crescita e occupazione devono essere le priorità dell'Unione Europea. Questo suppone che si spinga l'acceleratore sull'occupazione dei giovani. è quello di cui discutiamo e su cui insistiamo oggi. I 6 miliardi stanziati per 2 anni sono troppo pochi. Bisogna arrivare a 20 miliardi, semplificare le procedure e anche insistere sul piano degli investimenti, su cui si concentrerà il lavoro della Commissione che si insedierà presto. Infine, c'è il tema del coordinamento delle politiche di bilancio. Occorre aggiustare il ritmo delle politiche di bilancio in rapporto al passo della crescita, perché oggi è la crescita ad essere minacciata. Allora, scrivono ancora gli ascoltatori, scrivete ancora sulle dichiarazioni di prima. C'è per esempio un ascoltatore che dice: Barisoni, ho iniziato a lavorare nel 2003 dopo l'università, sono quasi sempre stato precario, ho aspettato a migrare all'estero cercando prima di avere esperienza e poi me ne sono andato all'estero. Ho qualche colpa? No, a mio avviso no. Lei rientra nella categoria che dicevo, cioè quelli che adesso hanno 25 anni e che 15 anni fa ne avevano 10, o ne hanno 30 e che 15 anni fa ne avevano 15. No, lei non ha colpa, lei è vittima delle riforme non fatte in questi anni. Quando dico non fatte, non mi riferisco solo al centro-destra o al centro-sinistra, mi riferisco a tutte le barriere che sono sempre state messe. Poi uno prende la storia di questo paese e va a vedere quanti anni ha governato il centrodestra e quanti anni ha governato il centrosinistra, ma al di là di questo, ogni volta che c'era un tentativo di riforma, da un lato o dall'altro, le barriere erano enormi, perché si andavano a toccare interessi, ok? Interessi e posizioni di renta. Comprensibile che uno sia innamorato del passato, di quando tutti stavamo meglio, di quando non c'era la Cina e l'India, di quando non c'era la concorrenza, il mercato era molto più ristretto. Però poi, una volta che l'abbiamo detto, com'è il cinquantenne che va a ballare con i jeans rossi e pensa ancora di averne 30, 20, sei patetico se continui a pensare di non cambiare. Ecco, il paese ha ballato, diciamo, con i jeans rossi per 20 anni, ok? Perché ogni tentativo di riforma veniva bloccato a destra, veniva di destra, a sinistra, veniva di sinistra. Adesso siamo in questa situazione. Gli unici che non hanno colpa sono quelli che non votavano e non prendevano decisioni, prendevano solo qualcos'altro, e in questi anni adesso si ritrovano col massimo della disoccupazione degli ultimi, da quando la misuriamo, ok? Però tutti gli altri si mettono una mano sulla coscienza, a qualunque categoria professionale appartengono, e dicono: se veramente, veramente non c'è stata una resistenza complessiva del paese a qualunque tentativo di riforma o di toccare anche situazioni di privilegio. Allora, visto che si parlava di chi va all'estero, in collegamento con noi c'è Sergio Nava, che sta seguendo appunto il vertice europeo sul lavoro, ma non per parlare del tuo programma. Sergio, buonasera. Buonasera. Abbiamo appena visto la dichiarazione di Angela Merkel. Intanto, se ci puoi, se hai capito quando più o meno vi sarà la conferenza stampa, se l'hai capito. Doveva essere 18, la realtà è che ha appena preso la parola Mariano Rajoy, il premier spagnolo. Da quanto possiamo vedere, questa è una conferenza in cui c'è una scaletta abbastanza infinita di interventi uno dopo l'altro. Abbiamo già contato 5-6 primi ministri negli ultimi 20 minuti, ognuno sta dicendo sostanzialmente la sua, anche se non riusciamo a sentire cosa sta dicendo. Però è tra virgolette abbastanza noioso, se vogliamo, come conferenza. È una susseguirsi di interventi col tema occupazione. Quello che è interessante, al di là, due spunti sono sicuramente interessanti. Il primo l'hai detto poco fa, cioè il fatto che sostanzialmente le istituzioni europee e anche la Germania hanno celebrato questa riforma del mercato del lavoro che sta portando avanti l'Italia, forse anche perché è la prima vera riforma strutturale che sta facendo il governo, e la seconda cosa è di fatto la rottura che ha oggi ufficializzato Hollande con la Merkel, quando ha esplicitamente nominato la Germania dicendo i paesi in surplus come la Germania devono alimentare la domanda, bisogna stimolare gli investimenti, bisogna pensare alla crescita e non più al rigore. È stata un'uscita molto forte quella di Hollande. Sì, che abbiamo fatto ascoltare nel passaggio in cui diceva non c'è risanamento senza crescita, no? Per cui il meno austerity insiste sul piano di investimenti dell'Unione Europea. Facevo notare che un economista autore di un libro molto importante, che è un caso editoriale, che sarà il nostro ospite nei prossimi giorni, Thomas Piketty, economista francese. Il libro si chiama Il Capitale, è stato il caso in America ed adesso lo diventerà probabilmente anche in Europa. Sostiene che la debolezza di Francia e Italia in questo caso sia di non avere dei piani concreti, cioè se tu dai l'impressione alla Germania di voler chiedere solo maggiore flessibilità, cordoni più larghi e un po' di soldi, è chiaro che la Germania ha gioco facile nel rispondere no, non siamo il bancomat d'Europa. Se tu andassi con un piano dettagliato, concreto, di quali investimenti a livello europeo andrebbero fatti, probabilmente metteresti più nell'angolo la Germania. Questo sicuramente, ed è un po' forse il refrain che ha caratterizzato gli ultimi anni, gli anni della crisi. Di fatto si è accentuato questa divisione tra nord dell'Europa, che non si fida del sud sostanzialmente, in questo sud è entrata ormai anche la Francia, e al momento però non è che si veda una vera e propria via di uscita, continua a sembrare più che altro un dialogo tra sordi, tutto ciò si è accentuato anche negli ultimi giorni con la Francia che ha rinviato ulteriormente il rientro del deficit sotto il 3% del PIL, però bisogna, alla fine è anche una questione, se vogliamo, culturale. In Germania ricordiamo sempre che debito e colpa hanno la stessa parola, Schuld, per cui i tedeschi effettivamente tendono a fidarsi solo se si offre qualcosa di concreto in cambio, altrimenti se sono solamente parole. Però bisogna trovare assolutamente a questo punto una via di mezzo. Io critico spesso la Germania, però è innegabile che c'è stata anche una debolezza nella proposta di chi diceva basta solo austerità. Ok, che cosa vuoi? Bisognerebbe andare su proposte ancora più concrete. Ho fatto l'esempio prima. Allora vai seriamente con un piano dettagliato a chiedere investimenti, per esempio infrastrutturali europei, oppure a chiedere che nel calcolo del deficit per alcuni anni non vengano considerati gli investimenti che tu fai per rendere più competitivo il paese, però devi avere un pacchetto concreto, non puoi solo dire più crescita, meno rigore e dare l'impressione che tu vuoi semplicemente tornare a ballare come prima. Resta con noi Sergio Nava, perché vorrei capire le posizioni degli altri paesi, anche se è chiaro che visti i pesi, i rapporti di forza, tutto si gioca tra Germania, tra virgolette, contro Francia e Italia. Ultima parte di Focus Economia. Dicevamo, Sergio Nava, la posizione degli altri paesi, perché è vero che la partita si gioca in questo momento soprattutto a tre, però c'è la Spagna di Rajoy, che ha numeri molto positivi per l'anno in corso e per il prossimo anno, che le riforme le ha fatte, certo ha una disoccupazione record, doppia della media europea, e poi ci sono anche i paesi del nord Europa che tendono a essere, per essere buoni, molto vicini alla Germania come posizione. Così, e lo si è visto anche oggi, ho avuto modo di ascoltare un paio di dichiarazioni, non ci sono state moltissime dichiarazioni oggi, però due in particolare, la presidente lituana e anche la ministra del lavoro spagnola, ed entrambe alla fine battevano un po' sullo stesso tasto, dicevi proprio tu, cioè il fatto, loro hanno sostanzialmente detto, attenzione, guardate anche cosa abbiamo fatto noi, abbiamo fatto delle riforme, le abbiamo fatte anche con difficoltà, anche con lacrime e sangue, però ora stiamo tornando a crescere. Quindi il messaggio sottinteso a Francia e Italia, soprattutto alla Francia, però insomma ai paesi che più restii a fare queste riforme strutturali, è le regole che sono valse per noi devono valere anche per voi, insomma non cercate vie di uscita, per quanto siano difficili queste, le riforme le dovete fare, e su questo questi paesi effettivamente sembrano battere su un tasso più tedesco, sono la via di mezzo alla fine, sono paesi che hanno cercato di fare quello che occorreva fare per rimettere in sesto le economie, e che alla fine portano dei risultati. È anche vero però che la Germania deve cominciare anche un po' a venire incontro alle esigenze di paesi. Non puoi avere il fratello ricco che è più avaro dei fratelli poveri, mettiamolo così, se vogliamo far capire il concetto. Grazie a Sergio Nava, in attesa di capire quando vi sarà la conferenza stampa e se queste distinguo, queste tensioni, questa posizione che sta cavalcando Hollande, alcuni dicono la forza della disperazione, è precipitato nei sondaggi, i minimi storici in Francia, però se vi sarà A, la saldatura Parigi-Roma, e B, se questa verrà ribadita in maniera molto netta nel corso della conferenza stampa. Oggi è un classico esempio di quelli che sono i temi di questi mesi e di questi anni, il fronte europeo da un lato e poi il fronte italiano dall'altro, e quindi chiedere alla Germania, maggiore non comprensione ma capacità di comprendere che se l'Europa avanti così si schianta, e dall'altro però dimostrare alla Germania e agli altri paesi che le riforme le sappiamo fare. E allora andiamo al Senato. Chi mi scrive al 349-238-6666, lei dice sempre le stesse cose sulla Germania, è davvero noioso, può essere, però può anche vedere in un altro modo. Siccome la Germania non cambia, e non è proprio la caratteristica principale dei tedeschi, la flessibilità, io dico sempre le stesse cose, perché la Germania continua a comportarsi sempre nello stesso modo. Poi vabbè, magari colpa mia, Allora, Vincenzo Miglietta, al Senato inizierà puntuale il voto di fiducia alle 18.30, almeno quello, visto che alle 18 non è partita la conferenza stampa, ce lo aspettavamo, dei tre presidenti. Vedo Poletti che ha appena dichiarato i dissensi sull'articolo 18 non ci fermano. Vincenzo, mi senti? Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, Sebastiano. Botto, pensavo fossi caduto. Partirà alle 18.30 e il governo sembra molto sicuro, sia con Poletti che con Renzi. Prego. Sì, governo molto sicuro. Ecco, per i tempi del voto ti devo correggere, in quanto il voto slitta alle 21, ci sarà la prima chiama, tutto è a rilento a causa della protesta del Movimento 5 Stelle, che da questa mattina sta cercando di rallentare con proteste varie i lavori dell'aula di Palazzo Madama. Ma ricordiamo l'espulsione del capogruppo Petrocelli da parte del Presidente del Senato Grasso. Lo stesso Petrocelli non è voluto uscire dall'aula, addirittura si è barricato dentro ed è stato lì almeno un'oretta, sino a che poi i lavori sono ripresi alle 16, però tutto è slittato, quindi ripeto, la prima chiama ci sarà alle 21, il risultato non dovrebbe arrivare prima delle 22, però è un risultato abbastanza scontato, Sebastiano, perché anche la minoranza PD si allinea verso un sì al voto di fiducia. Vi è un documento di 35 senatori che vogliono un attimino sottolineare la loro diversità, spiegano che nei futuri passaggi parlamentari, a partire quindi dalla Camera, il testo dovrà essere migliorato, perché non tutte le indicazioni della direzione PD sono state recepite. Comunque gli occhi restano puntati sull'articolo 18 e vi è comunque la conferma del superamento del reintegro per i licenziamenti economici, con la sostituzione di un indennizzo economico. Sì, ci sono anche altre novità, perché ho visto che il maxi emendamento del governo prevede gli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato e si punta a promuovere anche il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. E poi che gli eventuali risparmi di spesa che arriveranno dalla revisione dell'applicazione della cassa integrazione ordinaria e soprattutto quella straordinaria e dei fondi di solidarietà potranno essere destinati ai nuovi ammortizzatori sociali. Cosa vuol dire? La cassa integrazione straordinaria purtroppo si applica a aziende che sono in vita solo artificialmente, brutto dirlo, imprese, il mondo del commercio, artigiani, la manifattura, e da più parti si dice: quanto devi tenere in vita artificialmente un'impresa che non ce la fa più con la cassa integrazione straordinaria? Non sarebbe meglio usare questi soldi con il famoso voucher per dare la possibilità al lavoratore o ex lavoratore di riqualificarsi, andare a un centro per l'impiego, trovare un lavoro, e quindi spostare i soldi da una cassa integrazione straordinaria, non l'ordinaria che non c'entra nulla, la straordinaria, verso forme di nuovi ammortizzatori sociali. Resta il tetto dei 5.000 euro per i voucher, appunto, nei diversi settori produttivi, e poi c'è anche il tema della revisione delle mansioni dei lavoratori nella contrattazione aziendale anche di secondo livello. Vincenzo, a questo punto giustamente tu ricordavi come non ci dovrebbero essere sorprese per quello che riguarda il voto. A mio avviso, a questo punto sarà interessante vedere poi che cosa prevede la legge delega su tutto questo e capire anche che se dal Premier Renzi, al di là della conferenza stampa, arriveranno altre indicazioni. Grazie intanto a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi dal Senato. E allora domani commenteremo sicuramente anche questa conferenza stampa. C'è chi mi chiede il titolo del libro, il libro di Piketty è tradotto in Italia da Bompiani, si chiama Il Capitale. Il Capitale nel XXI secolo, sì, da non confondersi con Il Capitale di Karl Marx, anche se diciamo riprende un certo filone. È il libro più letto, più importante secondo Barack Obama, dovrebbe essere il nostro ospite nei prossimi giorni. Intanto l'auguro di una buona serata e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.